24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani. Cioè, l'ha capita? Farò un master in bersanese. Buongiorno cari italiani, eccoci alle 6:32 minuti, anche i tacchini sono benvenuti. E allora anche i piccioni, anche i gabbiani sul comigno della Sistina, tutti quanti. Allora, sono le 6:33 minuti, c'è la nostra Miriam Lucchetti già che sta sclerando lì in redazione. Si capisce subito dalla faccia quando è giornata buona o giornata non buona. E c'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia, ovviamente. E c'è allora il nostro Barlamento che può aprire il nostro bar per il venerdì con la nostra bella Nicole. Forza gente, accorrete al Parlamento. Tutti accorrete, il Parlamento oggi si insedia. Il Parlamento. E con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare storto come il dottor House. Saluto anche i Two Fingers che sono gli autori di questa canzone. So che ci seguono, sanno, mi seguono su Twitter, no? Li salutiamo. Si insedia il Parlamento. Intanto io voglio salutare Silvia Brasca, buongiorno, benvenuta del TG della 7. Buongiorno Silvia. Buongiorno a tutti. Ti sei schiarita la voce? Che devo farti un attimo cantare una cosa. Eccola lì. Pazza intera mala. È una gioia. Silvia Brasca è una sfigatata interista. Sono quelle cose, guarda, uno fa 4 gol come il Barcellona e non bastano. Siamo fatti così. Siete fatti così. Da fare. Allora Silvia, ti presento uno che tiene, se ricordo bene, forse la Lucchese, forse mi ricordo bene. Paolo Del Debbio, buongiorno. La Lucchese, è vero? Sì. Ricordavo bene, insomma, la Lucchese. La Brasca, perché la Lucchese è il colore del Milan. Lo so, infatti. Però... sì, però non c'entra nulla. No, infatti. Del Debbio comunque un pizzico di Berlusconite la tiene, perché almeno... Sì, no, ma siamo almeno... in C26 noi. Infatti dove gioca la Lucchese? Manco lasci stare, passiamo ad altro. Vabbè. Comunque, Silvia, ieri era San Siro o no? No, ieri no, ero a Londra, però ero stata a Londra, ma ieri poi non potevo andare a San Siro, seguito da un'altra parte. Ma come a Londra? Cioè, pensavi che il ritorno fosse a Londra, anche il ritorno? No, ero andata, ho visto i tre gol del Tottenham a Londra, ero andata là, certo. Pensavo che, non so, ti fossi sbagliata, dici vado a vedere il ritorno a Londra e poi l'hai vista in un pub con qualcuno, no? No, l'avevo visto l'andata. Vabbè. Devo dire, mi era bastata, però insomma invece... è andata così, ma è un anno così, non dirlo a me. Allora, qui su tutti i giornali ormai è il tema del giorno la questione del Papa. Allora lo chiedo anche a voi, insomma, se vi piace questo Papa Del Debbio, un Papa che paga, che prende l'autobus con i cardinali, che paga il conto, no? Che non si rifiuta tutti i vestiti, quali simboli del potere, il crocifisso d'oro, la mozzetta. Potrebbero essere tutti segni magari superficiali se dietro non ci fosse la sua vita, insomma, no? Infatti. Importantissima. Allora, poi qualcuno aveva provato a dire con Videla era stato, e poi dopo invece ha visto il premio Nobel che ha detto assolutamente non se ne parla neanche. Ma oggi continuano sui giornali, figurarsi. Cioè, sì, continuano, però insomma voglio dire, mi sembra un'accusa abbastanza superficiale, però comunque sia, quello lì si vedrà. Ma intanto c'è una vita di un bel po' di anni nella quale ha fatto sempre così, per cui questi gesti qui, con quei 50 anni alle spalle, insomma, mi sembrano... È un buon inizio. No, anche perché tutti dicono del fatto ha pagato il conto, gesti magari di umiltà. La vera notizia, secondo me, però, c'è sul Fatto Quotidiano, che la mette in prima pagina, il titolo di prima pagina. Ieri il Papa è entrato in chiesa per la prima messa, avrebbe fatto questo. È entrato, ha visto in chiesa Bernard Law, cioè l'ex arcivescovo, credo, di Boston, cardinale, accusato di avere coperto alcuni abusi sessuali, e ha detto allontanatelo dalla chiesa. Lisa non lo voglio vedere qui dentro. E questo Il Fatto Quotidiano lo mette in prima pagina. Silvia, se fosse così, adesso non lo so, è un gesto abbastanza clamoroso, insomma, con tutte le polemiche che ci sono state, anche di fare pulizia su tanti scandali della Chiesa. Altro che, è un gesto fortissimo, se c'è stato appunto... E soprattutto adesso a me sembra, senza essere irriverente, queste prime ore con gli occhi puntati a vedere i comportamenti del nuovo Papa, mi sembra appunto un Papa con l'Oden, cioè quei gesti come si vedevano i primi giorni del governo Monti. Stiamo a guardare come con una grande voglia di vedere cambiare certe cose, quindi sono gesti, più che Paolo ha detto gesti di umiltà, ma gesti di una grande naturalezza. Ma è chiaro che siamo appesi a questi primi gesti. Comunque Il Fatto Quotidiano lo mette così in prima pagina, coprì i pedofili, il Papa via dalla Basilica quel cardinale, titolo di prima pagina, se fosse davvero questo quello che ha fatto, è un gesto questo abbastanza clamoroso. Se fosse questo che ha fatto San Pietro è quello che ha fatto quando era a Buenos Aires, e cioè quando ha scoperto una serie di cose del genere ha fatto così, quindi voglio dire, secondo me, non voglio insistere su una tesi così giusto per letteratura, ma perché penso che sia giusto guardarlo così, cioè questo è un Papa che porta la sua personalità, il suo modo di operare in questi decenni in cui è stato prima provinciale dei Gesuiti, poi arcivescovo, poi cardinale, li porta lì. Uno dice, sì, ma anche gli altri papi portano se stesso lì. Ma questo è un se stesso un po' diverso da quello degli altri papi. No, certo, non è che lo si può giudicare solo per il nome Francesco, eccetera. Cioè, ha una vita alle spalle che parla per lui, almeno per quelli che l'hanno raccontata in questi giorni. E scendiamo alle cose più terrene, mi devo far sentire. Cioè, terrene, nel senso la politica non strana, ma vi devo far sentire questa Rosy Bindi, che sinceramente Rosy Bindi, capisco sono le 6:39 minuti, ma comunque Rosy Bindi, sentite. Io mi permetto anche di chiedere allo Spirito Santo, visto che è stato in maniera così presente in questi giorni a Roma, di non allontanarsi, perché se si ferma qualche giorno in più, un po' di più, forse ce n'è bisogno di molto di più di quanto ce n'è stato bisogno in questi anni, nei lunghi 60 anni della vita repubblicana di questo paese. Ci dà una mano. Ecco, ci dà una mano. Silvia Brasca, invochiamo lo Spirito Santo. Caro Spirito Santo, se puoi rimanere qualche giorno di più a Roma. Al momento la mano sembra che la dia D'Alema, quindi... Mamma mia, ecco. D'Alema, hai citato un altro, del debbio lo Spirito Santo, l'invocazione di Rosy Bindi. Non so neanche che dire. Ma neanche Ratzinger, il Papa Ratzinger, Papa Emerito Ratzinger, una volta, oggi racconta il Corriere, gli chiesero, ma è vero che sceglie lo Spirito Santo in conclave? E lui, perfino il Papa ha detto, adesso non esageriamo, diciamo che fa in modo che la cosa non venga totalmente rovinata. Cioè neanche Ratzinger dice più che è lo Spirito Santo a scegliere il Papa. No, ma comunque, proprio, anche se scendesse, come alcuni pensano, sì, lì certamente non scende. Scappa. Se lo Spirito Santo vede la politica italiana, scappa. Cioè, si mette le mani nei capelli. Poi non sono fatti i suoi, sono fatti che qualcuno lì c'è e deve risolvere le questioni. Che c'entra? Sta di fatto, Silvia, che succede a Roma? Cosa c'è di fermento lì? Che la politica, cosa si racconta? Guarda, io sono a Milano, devo dire. Lavoro da Milano, dove si sta facendo delle cose sulla nuova giunta anche regionale, che insomma abbiamo forse un nuovo assessore. Ho capito. E qua io sto aspettando al varco la nuova giunta regionale, anche vivendo in Lombardia. Ho come il sospetto che tu possa immaginare a un nome tipo una collega alla cultura, con delega all'istruzione, insomma. No, non si sa. Paola Ferrari, conduttrice della Domenica Sportiva, potrebbe andare invece a al, non so, forse al marketing, al, comunque assessore alla regione Lombardia. Vabbè, ma dobbiamo scandalizzarci del debito? Ci si scandalizza per Paola Ferrari? No, mi scandalizzo di nulla. Guardo, a parte la conosco, funziona anche come è, che fa, che non fa, quindi non la conosco. Paola Ferrari la televisione e basta. È la conduttrice unica sportiva, no? La metteranno allo sport, visto che i grillini quando hanno studiato informatica vogliono fare ministri dell'evoluzione tecnologica. Giusto, sono, buongiorno, sono Paola Ferrari, conduco la domenica sportiva e per questo vorrei fare l'assessore allo sport della regione Lombardia. Non fa una grinza, è una stagione così, no? Ma che succederà oggi alla Camera? Ingegnere, ho fatto il geometra e voglio fare le infrastrutture. Noi ha chiamato, io sono un tassista, vorrei fare il ministro dei trasporti. Una volta uno in redazione, è così. No, però bisogna capire che cosa si troverà di soluzione. Allora voteranno scheda bianca quelli del Partito Democratico. Renzi dice non si capisce più nulla. Ci sono già i renziani che dicono qua ci stanno facendo perdere tempo, quelli vogliono lavorare, mica fare le riunioni di partito. Silvia, come andrà a finire questa? Lo faremo un governo? Fai il toto nome, dai, dici chi governerà. No, cari, dopo il Toto Papa che non hanno beccato, no, di nomi non ne faccio, è una situazione dove lo Spirito Santo è scappato, non c'è neanche il gabbiano sul camino. Onestamente la vedo molto dura, ma si capiva fin dall'inizio, la vedo durissima. La vedi durissima. Sì. Nel debito che facciamo? Andiamo a rivotare? Perché qua dobbiamo dare una mossa, una scossa. Sì, non lo so se andiamo a rivotare, la questione è che si è un po' ingarbugliata, nel senso che, come ci dicevo una volta, ci sono i veti incrociati, nel senso che se uno fa una cosa allora l'altro non la fa. È come questa storia delle elezioni sul presidente, quegli altri votano tutti a scheda bianca. Ieri i grillini hanno già chiesto chi vogliono alla Camera e Calderano, quindi procureranno quelli. E non lo so lì che ma lì ci vogliono le votazioni, pare si vada direttamente a domani. A queste condizioni è stallo. Se poi ci sono degli accordi sotto che sono già stati fatti, che verranno fatti, che non vogliono essere detti, io questo ma tra poco ve lo dirò, perché non lo so, francamente, perché come ha detto anche Silvia, trama D'Alema, cioè D'Alema pare che stia facendo allora capisci siamo rovinati, dice. Capisce, siamo rovinati. Però io vi devo far sentire questo. Allora, 2 giorni fa abbiamo avuto Marta Grande, 25 anni, possibile nome per la presidenza della Camera. Allora, c'è un mistero, perché allora ha 2 lauree, no, ha una laurea in America, poi un master e sta prendendo un'altra laurea in Italia. Io mi sono fidato di questa cosa e quindi l'ho presentata così, sentite. Marta Grande, 25 anni, mi pare di aver capito, una laurea presa in Alabama, un master preso in Italia, una nuova laurea credo in arrivo. Manca semplicemente la discussione della tesi, quindi doveva essere a marzo, ma ovviamente è stata un attimo slittata per motivi più importanti. Allora, io l'ho dato per assodato così, se avete sentito, sì, una laurea in Alabama, un master. Oh, Del Debbio, oggi prendi libero la grillina che pare Giannino. Giallo sulle lauree prese all'estero da Marta Grande. Ma porca miseria, io non... ma perché lo dicono? Ma io non lo so, adesso è giallo, cioè, poi per carità, perché fare non sia una laurea ma sia un bachelor, che è un corso di 2 anni, che non si capisce più nulla. Ma Silvia, tu sei laureata? Io sì. No, non dirlo con questo tono. Come dire, in che cosa sei laureata? Perché no, poi... sono laureata in scienze politiche. Sì, anch'io, quindi vabbè, facciamo. Lo sai bene, quindi lo dico sì. Quindi, anch'io, infatti, sono laureata in scienze politiche, per cui non c'è nulla da vantarsi di questa cosa. Esattamente. Scienze... Ma chi l'ha detto? Per carità, no, a Milano negli anni Ottanta era anche una bella università interessante. Sì, certo, c'era l'aula, c'era l'aula fumo, sì, alla statale ovviamente ti sei laureata. Quindi hai frequentato l'aula fumo, queste cose qua. Ho studiato molto, no? Ho studiato, mi sono impegnata, cioè quello che dovevo fare l'ho fatto. Non chiedevano molto. Per cui capisce Del Debbio, c'è gente che è laureata come me, Silvia Brasca, e manco se ne vanta. Perché sì. Non capisco come mai ora sia venuta fuori sta corsa. Non lo so. Siamo all'impazzimento. Comunque, Libero fa tutta una pagina a dire: non c'è traccia di titoli e master che aveva annunciato di avere. Hanno cercato, ormai così. È così. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Se mettono Nuzzi alle spalle, sta fresca questa qua. Sì, no, Nuzzi, un nuovo libro sui documenti di Nuzzi su Marta Grande. Terrorizzata Marta Grande. 24 mattino. La mala giustizia strangola anche la nostra economia. Oggi lo scopo principale della giustizia è far mangiare gli avvocati e gli operatori di giustizia che hanno interesse a processi lunghi e a far decadere i termini. Occorre introdurre il principio che è meglio una sentenza affrettata, tra virgolette, che nessuna sentenza. Che bella figura che ha fatto l'Italia con questi marò, i soliti vigliacchi, i soliti che cambiano opinioni, che non mantengono le promesse, che figura davanti il mondo intero. E poi quel pupazzo di Monti che va a riceverli quando arrivano all'aeroporto, saranno pure due bravi uomini che sono incappati in un omicidio colposo, che miseria quest'Italia. Salve, sono Romana di Roma, donando solo 5 euro l'anno, ripeto, solo 5 euro l'anno, gli 8 milioni di elettori del Partito Democratico possono salvare il povero Bersani e tutta la tribù, perché hanno tanto, tanto bisogno, e 8 milioni per 5 fa 40 milioni, che sono più del finanziamento pubblico a cui non vogliono rinunciare, poverini, perché hanno tanto, tanto bisogno. Voi elettori PD donate 5 euro a Bersani, altrimenti sarà morto, morto! Do voce a Pasquino, che è diventato muto, che tristezza, che declino, vede il nuovo Papa che è venuto, mentre l'emerito, che non c'ha voglia di lavorare, dallo schermo a casa sua lo sta a guardare. Si è riportato il mondo, è tutta una barzelletta, che c'ha da festeggiare sta burletta, e il popolo coglione che in San Pietro sta a ballare? Allora, questo Papa sembra come Papa Luciani, e secondo me farà la fine di Papa Luciani, troppo umile per le belve di Roma. Caro Milan, lo conosci il detto? Scherza con i santi, ma lascia stare i santi. Non mi toccare questo Papa, perché ti mozzico. Ma no, che ti mozzico, non lo tocco il Papa, ci mancherebbe. Siamo con Silvia Brasca, siamo con Paolo Del Debbio, che conduce la quinta colonna. Quanto va avanti Del Debbio? Tutta la stagione, sì. Non lo so, forse mi fanno lavorare anche d'agosto. Ah, ecco. Vabbè, addirittura. Ci scrive... Anzi, si informi e poi me lo dice. Infatti, no, io chiami Berlusconi. Allora, ci scrive Luciano. Da piccolo sono Luciano. Ciao, da piccolo facevo castelli di sabbia. Vorrei diventare assessore ai lavori pubblici. Anche questa potrebbe essere un'autocandidatura. Non male, non male. Allora, D'Alema trama, cioè così pare. Silvia, è così, pare che voglia mettere allora tratta con Scelta Civica e PDL, lui Grillini proprio manco li fila, questa è una retroscena di Repubblica. Sì, larga intesa, cioè, sì. È così, però è così. Secondo me non succede nulla, poi magari, ma il problema è che anche non si capisce, anche tornare al voto non è una soluzione, non si capisce neanche quando, non lo so. Sì, ma poi con questa legge elettorale, ma non si capisce. Si fa. E vabbè. Intanto, adesso così metto in difficoltà ancora Del Debbio. Dell'Utri è stato condannato. Ma perché in difficoltà? No, non lo so, perché la gente ci scrive. Allora, una casetta sull'albero, non ce la doveva fare. C'aveva una casetta vista lago su un albero, vabbè, sulla sua villa. Che ti devo dire? Si è preso 8 mesi di carcere, ma appena sospesa. Pena sospesa. Allora sentite una santanché grillina, sentite. Ma dovremmo dire, gli italiani soffrono, 1000 o disoccupati al giorno, 300 aziende che chiudono, sapete cosa c'è? Che il nostro stipendio lo riduciamo non del 20 e del 30, dell'80%, perché gli italiani vivono con 1200 euro. Sì, io voglio dirle una cosa, perché lei ha detto che lei lavora, fa l'imprenditrice. Era da Mirta Merlino, l'area che tira adesso anche del debbio, anche la Santanchè fa quella, ma riduciamocelo dell'80% lo stipendio. Ma lei dice che tra l'altro non l'ha mai preso, l'ha detto varie volte anche da me, cioè che lo prende e lo destina ad altre robe. Sì, vabbè, perché è fortunata, insomma, è un'imprenditrice, altri. Addirittura. Non vive di quello, certo. Sì, però. Voglio dire, Silvia Brasca, no? Santanchè che dice facciamo, cioè, sembrano ormai tutti grillini più grillini dei grillini Sì, poi dopo tra il dire e il fare c'è, mi sembra ieri alla tua segreteria telefonica c'era chi appunto ha detto ma ci sono degli stipendi, insomma non è così, non è così facile, certo no. Grillo non ha una struttura di partito, insomma bisogna pensarci bene, ecco. Bisogna capire anche cosa succederà, perché questo 80% tagliamo non si sa, e forse a proposito di Grillo abbiamo anche la capogruppo Roberta Lombardi che ci fa sentire un po' il suo parere su come hanno scelto i nomi di quelli che devono essere proposti a Camera e Senato. Sentite, oggi quando ci siamo visti si sono ripresentati, sono stati efficacemente graticolati dai colleghi del gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati del 5 Stelle, hanno in una fase prima di autopresentazione e poi di fuoco incrociato di domande e alla fine abbiamo proceduto con un doppio turno di votazioni, anche noi sempre ad alzata di mano, sempre voto palese. Vabbè, questo è il turno del debbio, efficacemente graticolati. Sì, perché se uno ha detto io sono geometra e voglio fare le infrastrutture, lei ha detto ma come lo fai il ponte di Messina, non lo fai, oppure lo fai a volta, lo fai, capito? Sì, ha fatto uno schizzo, così allora qua la portanza del ponte quante ne sa Milan, la portanza del ponte. Questo, ho un fratello laureato in ingegneria, quindi, non è che mi vanto, dico, prendo la laurea di mio fratello. Il fratello laureato può fare il sottosegretario. Infatti, ho un fratello laureato in ingegneria. Sei laureato ministro. Infatti, è così. Però effettivamente. Quindi la Brasca, che è laureata in scienze politiche, potrebbe fare presidente della Repubblica. Sì, potrebbe essere. Ma invece Del Debbio, che laurea ha? Io ho fatto filosofia, sono un baccalaureato all'Università Pontificia. Filosofia. Non posso fare niente, Mila. No, filosofia è meglio di scienze politiche. Silvia, scienze politiche è proprio il gradino più basso. Niente. No, ma scienze politiche Milano anni 80, cioè proprio è il trittico scienze politiche Milano anni 80, è proprio le vendevano davanti al Burghi di San Babila le lauree scienze politiche anni 80. Vabbè, vi saluto e vi ringrazio. Silvia Brasca, il TG della 7, Paolo Del Debbio. Non abbiamo rispolverato la zappa del contadino, ma lo faremo prima o poi. Intanto il giornale radio. C'è questa indiscrezione, è arrivato il messaggio del Spirito Santo che dice: per favore, non mi mettete nel mezzo, grazie. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, cari ascoltatori, le 7:21 minuti. Siamo pronti a leggere con voi i giornali, se vi siete aggregati solo ora. Come dico sempre io, razza di debosciati, qua c'è gente che si sveglia alle 5, Peter Bescapè, l'alpino, si sveglia anche forse alle 4:30, ma lui è alpino, per lui è più facile. E allora vi ricordo che parleremo oggi dell'insediamento delle Camere, si insediano alle, credo, le 10 e poi ci sono le prime votazioni che andranno ovviamente nulle, così pare, sull'elezione dei presidenti di Camera e Senato, ma insomma vedremo tutto tra poco. In ogni caso racconteremo questa giornata, insomma, dopo che di là, oltre Tevere, in 48 ore hanno fatto un papa e di qua... Invece aspettiamo. Con pazienza arriverà tutto, anche un nuovo governo forse. Intanto andiamo a sfogliare i quotidiani in edicola. Venerdì 15 marzo, i titoli, il Sole 24 Ore, sul vertice di Bruxelles, Europa, sulla crescita nulla di fatto, scontro tra Francia e Germania sul rigore, questo è il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore, mentre c'è chi sceglie ancora il primo giorno del pontefice, Papa Francesco, i primi gesti umili del Papa, così titola il Corriere della Sera. Francesco paga il conto alla casa del clero, sceglie di non sedersi sul trono, eletto con più di 90 voti, sono indiscrezioni dal conclave. Repubblica, il Papa, così la Chiesa ripartirà. Per il Messaggero, Francesco scuote la Chiesa. Libero, chi è davvero il nuovo Papa? Troppe bugie su Francesco, c'è chi lo accusa di complicità coi dittatori, chi lo arruola nella sinistra, ma quella di Bergoglio è tutta un'altra storia, ve la raccontiamo. Il Fatto Quotidiano invece ha una notizia legata al Papa che è un po' un'esclusiva, nel senso che altri giornali non l'hanno messo. Coprì i pedofili, via dalla Basilica quel cardinale. Questo avrebbe fatto il Papa nella prima uscita a Santa Maria Maggiore, entrato in chiesa, riconosce Bernard Law, accusato di aver insabbiato i casi di molestia a Boston, e ne chiede l'allontanamento dalla chiesa. Luce e ombre, così titola invece il Manifesto sulle prime uscite del nuovo Papa, mentre Avvenire, mai senza la croce, la prima omelia di Papa Francesco. La questione politica invece per La Stampa, Grillo non cede, Camere dal PD scheda bianca. Il Giornale invece, Bersani vuol comprare un pugno di grillini. L'Unità, Camere, falsa partenza. E vabbè, questi i titoli, quindi tra Papa e politica. A proposito di politica, devo subito parlare dell'onorevole o cittadina, come ama farsi definire, del Movimento 5 Stelle, Marta Grande, che è stata nostro ospite, tra l'altro, due giorni fa. E due giorni fa, quando è stata nostra ospite, credo mercoledì, insomma 25 anni, un curriculum brillante, e io leggendo il curriculum ho detto una laurea presa in Alabama, poi un master e poi una quasi laurea presa in Italia, nel senso che manca la tesi. E beh, oggi uno apre il giornale Libero, la grillina che pare Giannino, giallo sulle lauree all'estero. La neoeletta Marta Grande punta a diventare la nuova Pivetti, ma non c'è traccia di titoli e master che aveva annunciato di avere. Questa è una pagina di Libero, ma anche sul giornale Grande, addio sogni di gloria, fatale il giallo delle lauree. Insomma, così almeno a raccontare dai giornali, c'è un giallo sulle lauree. O sulla laurea presa in Alabama, due lauree e un master, tutto preso all'estero tra l'Alabama e la Cina, scrive Libero. Anzi no, una sola laurea all'università di Huntsville e due master. Ma che? Una laurea e un master? No, no, una semilaurea, una quasi laurea e vari master. Ma no, master, solo corsi, ecco sì, corsi. E un solo diploma, non laurea, di maturità scientifica, però preso in Italia, almeno questo. Eccolo qui il gioco dell'oca dei titoli di studio di Marta Grande, grillina dal grande passato, dal rilucente futuro. Leggo l'articolo di Enrico Paoli a pagina 12. Ma è laureata lei o no? Certo che domande, vada a controllare sul sito, questo è il primo impatto qualche giorno fa. Poi dice, io non ho detto nulla di tutto questo, vero, parlano gli atti, anzi la rete, tanto cara ai grillini. E allora il curriculum, più volte ha sbandierato, mi laureo nel 2009 in lingua e commercio internazionale presso l'Università dell'Alabama di Huntsville. Nel 2012 seguo un corso in relazione internazionale alla Peking University in Cina, in particolare sulla transizione di potere a livello internazionale. Insomma, ma qui nascono tutti gialli, perché laurea o in realtà si tratta di un Bachelor of Art, cioè un diploma universitario e nulla più. Alla fine pare che sia questo, non tanto una laurea, ma il Bachelor of Arts, cioè solo un corso biennale. Insomma, anche sul giornale si racconta di questo giallo. Fatale il giallo delle lauree, forse per Marta Grande, che anche per questo, racconta Stefano Zurlo, forse non è stata candidata dal Movimento 5 Stelle come possibile presidente della Camera. Vabbè, ma sulla politica torneremo. Prima voglio darvi una notizia di cronaca, l'abbiamo sentita anche nel giornale radio, e sono quelle notizie che, certo, per carità, ognuno poi può reagire di pancia, può reagire con stupore, può reagire con, potete reagire come volete. Io vi do la fredda notizia di cronaca, che è questa: Pietro Maso, una persona che è entrata nella storia della criminalità in Italia, ricordate colui che il 17 aprile del 91 uccise a sprangate i genitori per avere l'eredità, Pietro Maso di fatto è libero. La sua libertà definitiva sarà sancita il 15 aprile 2013, fine pena, quindi ha scontato la sua pena. Ultimamente peraltro era, credo, in semilibertà, insomma godeva di benefici, non stava in carcere. Pietro Maso è libero e pubblica un libro. Le accuse dicono pena lieve. Il sindaco Tosi, anche di Verona, è contro la sua scarcerazione, racconta Andrea Pasqualetto sul Corriere della Sera, pagina 31, dice: la pena è troppo esigua per un delitto così atroce, ma il problema non è la magistratura, è il sistema giudiziario che è iperbuonista. In sostanza, i giudici hanno applicato una legge sbagliata. Comunque, racconta il Corriere la sua vicenda: Maso era stato condannato a 30 anni e 2 mesi di reclusione, però esce per effetto degli sconti di pena, 45 giorni maturati ogni 6 mesi per buona condotta, 3 mesi all'anno, ai quali si devono sommare i 3 anni per l'indulto. Insomma, sta di fatto che con tutti questi calcoli sarà libero e pubblicherà un libro che dovrebbe uscire proprio appena ad aprile, appena finirà la sua pena. Il male ero io, questo è il titolo del libro. Pietro Maso torna libero il 15 aprile, grazie all'indulto ha scontato 22 anni, così Alessandro Gonzato sul Libro e anche La Stampa. Dopo 22 anni di carcere, Pietro Maso torna in libertà. Nel 91 massacrò i genitori con l'aiuto di 3 amici, 22 anni e torna libero. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Le 7:35 minuti, eccoci qui. Intanto dall'altra parte del vetro ridono, c'è gente che versa caffè per sbaglio, ovviamente, su credo il mixer, ma spero che vada tutto bene con i bottoni a questo punto. Allora, il Papa, beh, tutti i giornali raccontano la prima giornata del pontefice di Papa Francesco. Tutti i giornali ancora mettono in risalto che cosa? I primi gesti dai quali si può giudicare il nuovo pontificato, e sono gesti tutti improntati alla anormalità alla quale siamo abituati, alla umiltà. Per esempio, ha pagato il conto, ecco, la rivoluzione dei piccoli gesti, così a pagina 3 del Messaggero. Ha pagato il conto, è andato alla casa dove aveva alloggiato fin dall'inizio del conclave, ha saldato il conto personalmente. Poi ha rifiutato, e questo dal primo giorno, la croce d'oro che indossano i pontefici, tiene una croce di ferro che porta da quando è divenuto vescovo. Non ha la macchina, cioè si è rifiutato, non ha voluto utilizzare l'auto papale, ha optato per un'altra vettura meno lussuosa messa a disposizione della Santa Sede, addirittura ha finito il conclave salito in autobus con tutti gli altri cardinali, cioè vestito da papa. Grande sorpresa ovviamente ancora per quando ha detto buonasera, quando si è presentato davanti ai 100.000 circa fedeli raccolti in piazza San Pietro che attendevano appunto di conoscere il volto del nuovo papa. Alla scorta dice anche: non mi servono le guardie, non sono un indifeso. Ha chiesto di aprire le porte della basilica al primo giorno. Insomma, tutti i gesti che vengono rimarcati dai giornali per dire le scelte molto molto vicine al popolo. Anche il Corriere della Sera mette anche sotto la dicitura gli strappi del nuovo papa, no? La croce in ferro, niente mozzetta, in piedi invece di sedersi sul trono. Ha salutato i cardinali nella Cappella Sistina durante l'omaggio, non si è seduto sul trono del papa ma è stato sempre in piedi. Non si è mai ancora definito papa, ma sempre vescovo di Roma. Insomma, tante piccole immagini, tanti piccoli racconti per far sapere quale sia lo stile Bergoglio. Scorta ridotta, niente oro, l'hotel pagato da sé, così titola anche a pagina 4 Libero. Per la verità, il vero gesto di rottura abbastanza clamoroso, se confermato, è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano titola in prima pagina così: coprì i pedofili, via dalla basilica quel cardinale. Il racconto è di quello che è avvenuto ieri, e lo fa Carlo Tecce a pagina 3 del Fatto Quotidiano. il Santo Padre, entrato ieri a Santa Maria Maggiore per la prima celebrazione, per la prima messa, avrebbe riconosciuto il cardinale Bernard Law, Bernard Francis Law, uomo di 82 anni, ormai in pensione, senza avere mai scontato l'accusa di avere coperto i preti pedofili nella diocesi di Boston. Ebbene, veduto e scrutato, insomma, la presenza di Bernard Law, il Papa avrebbe detto: non voglio che frequenti ancora questa basilica, va allontanato. Beh, la scena è raccontata: non voglio più vedere il cardinale dei pedofili. A Santa Maria Maggiore Bergoglio incontra Law, accusato di aver coperto gli abusi, e chiede di allontanarlo. La scelta, il racconto è abbastanza clamoroso. Carlo Tecce scrive: a un certo punto, varcato il portale di Santa Maria Maggiore, lo sguardo del Papa si fa cupo. Non aspettava di incontrare il cardinale messicano Bernard Law. L'associazione statunitense SNAP ha elencato più di 5.000 episodi che il cardinale avrebbe coperto, costringendolo poi alle dimissioni. Al fatto risulta che il pontefice argentino, come primo atto di pulizia, si è intenzionato a fare trasferire il prelato mettendolo in clausura, e sarebbe una rivoluzione per il Vaticano, che ha protetto Law sottraendolo al percorso giudiziario americano. Questa sarebbe la vera svolta raccontata al Fatto Quotidiano. Per quel che riguarda invece il conclave, è interessante leggere ciò che Maria Antonietta Calabrò racconta a pagina 5, cioè come si è arrivati all'elezione poi del pontefice. L'accordo che ha portato oltre 90 voti, questo è il titolo dell'articolo, intesa tra Sodano, Bertone e Dolan, e contro Scola anche i Lombardi. Cioè il senso di quest'articolo che trovate sul Corriere è ben chiaro, e cioè c'è stata un'unione e una convergenza di voti tra il cardinal Sodano, il cardinal Giovanni Battista Re, la curia dell'attuale segretario di Stato Tarcisio Bertone, i cardinali statunitensi, per puntare appunto su Bergoglio. Come ha detto il cardinale di New York Timothy Dolan: siamo stati molto felici del risultato, emozioni molto grandi. Il grande sconfitto invece è il cardinale arcivescovo di Milano Angelo Scola, che scrive: il Corriere ha avuto contro gli italiani, uniti nell'escludere il cardinale Scola. Persino i cardinali della Lombardia, scrive il Corriere, gli hanno votato contro. E quindi è sconfitto lui, o comunque quando si è capito che non era lui, non aveva l'appoggio per diventare nuovo Papa, ci si è concentrati su Bergoglio, Papa Francesco. Sui giornali ci sono anche le accuse e le difese per il passato di Bergoglio, le presunte connivenze con la dittatura argentina. Avvenire inizia quella che deve essere una campagna per raccontare quella che Avvenire dice è la verità, quelle false accuse per gli anni bui. Perché dico l'inizio? Perché l'articolo che trovate a pagina 9 finisce con uno continua: debolezza col regime di Videla, altro che aiutò i perseguitati, non c'è alcuna compromissione da parte del Papa. Anzi, racconta Avvenire in questo articolo di Nello Scavo, ci sono state pubblicate foto di spalle lavorate, come dire, quindi modificate, con il generale a capo della giunta, sono state spacciate per suoi ritratti, il nome è stato inserito ad arte nella lista degli informatori per screditarlo politicamente. Dunque una difesa a spada tratta di Bergoglio, a dire in realtà lui difese questi sacerdoti gesuiti che sono stati arrestati e torturati. La pensa diversamente il fratello di uno di questi sacerdoti, vale a dire Adolfo Iorio, viene intervistato dal Manifesto da Filippo Fiorini a Buenos Aires. Adolfo Iorio, detto Fito, il fratello di uno dei due sacerdoti che furono arrestati e poi torturati, poi furono liberati, ma poi successivamente sono morti durante il regime di Videla, racconta al fratello di questo sacerdote: è paradossale, vedo che il Papa è stato chiamato il Papa che ama i poveri, eppure io vi racconto che lui ha voluto togliere di mezzo mio fratello perché gli aiutava questi poveri. Spiegatemi se tutto ciò non è paradossale. Dunque il fratello di questo sacerdote gesuita dice: in realtà è stato proprio Bergoglio a denunciare mio fratello, che invece fu salvato dall'intervento del cardinale di allora Pio Laghi. sul quale, sulla cui biografia anche qui però ci sono state invece accuse di connivenza con il regime cileno. Insomma, comunque la vediate, ci sono queste polemiche che rimangono anche sul Corriere, la controversia Bergoglio e Desaparecidos argentini, ma lui non fu complice dei militari, così ha difeso il premio Nobel Esquivel. Ci sono invece teorie diverse e ognuno porta la propria opinione. Anche il giornalista Orazio Verbitsky, uno dei più famosi giornalisti argentini, che ha tirato fuori le accuse contro Bergoglio, oggi viene intervistato dal Fatto Quotidiano, in due pagine dice: ecco qui le accuse nei suoi confronti. Vabbè, c'è questo aspetto del passato, ma credo che nel giro di due o tre giorni finirà. La politica invece, la politica italiana sembra quasi una barzelletta leggere questa parola sul Sole 24 Ore. Stallo, ma dai, la politica è in stallo, e quindi stallo in Parlamento. Oggi inizia formalmente la nuova legislatura, si insediano le Camere, si insedia la Camera, si insedia il Senato, come primo atto bisogna eleggere i presidenti, e stallo, non si sa, ma sì, anche questa ci mettiamo, forse arriverà domani l'elezione, le prime elezioni, siccome non c'è convergenza sui nomi, pare che andranno con fumata nera, scheda bianca ma fumata nera, scheda bianca è quello che ha deciso il PD. Io per il secondo giorno propongo umilmente, dal basso della mia inutilità, questa cosa. Chiudiamo il Parlamento, sigilliamo tutto, mettiamo un bel comignolo sul tetto del Parlamento, ci mettiamo anche un gabbiano di cartapesta se non ne viene uno in carne e ossa, e attendiamo questo conclave politico. Ovviamente buvette, gli diamo da mangiare, ci sono i bagni, ci sono i velluti rossi, ci sono le poltrone in pelle dentro il Parlamento, staranno comodi, divanetti, finché non hanno ottenuto dei risultati anche, facciamo le consultazioni col Quirinale, lo trasferiamo lì dentro, facciamo le consultazioni lì dentro, finché non esce un governo, quando esce un governo, fumata bianca, tutti i fedeli della politica applaudiranno e finalmente potranno uscire anche i parlamentari. Stallo in Parlamento, la scheda bianca del PD, racconta Barbara Fiammeri a pagina 15 del Sole 24 Ore. Per ora si gioca al buio, su Presidente di Camera e Senato non è stata raggiunta alcuna intesa tra le forze politiche, quindi è quasi scontato che bisognerà attendere domani per conoscere i nomi di chi guiderà il Parlamento della 17ª legislatura. Il Movimento 5 Stelle ha proposto Roberto Fico per la Camera e Luis Alberto Reyana, candidato invece alla Presidenza del Senato, nato a Caracas in Venezuela. Il primo, Fico, ha credo 38 anni, il secondo 51 anni, ma è in pass su questi nomi. Appunto, Bersani ha detto l'ordine per il Partito Democratico votare scheda bianca, intanto continuano le trame in retroscena. Uno che trama più degli altri, questo secondo Repubblica, è sempre lui, Massimo D'Alema. Allora, Massimo D'Alema, secondo Repubblica, in questo retroscena firmato da Francesco Bei in prima pagina e poi prosegue a pagina 19, è colui che sta cercando le mosse per trovare una ricomposizione del tutto. Voi dite, ma come Massimo D'Alema? Ebbene sì, non è neanche stato eletto in Parlamento. Vabbè, ma la politica italiana segue queste vie perigliose e misteriose. Allora, è entrato in campo Massimo D'Alema. La notizia non è ufficiale, ma molti ne parlano sottovoce. Così inizia l'articolo di Francesco Bei. Arrivato l'uomo della trattativa impossibile, quello che dovrebbe mettere insieme le forze politiche responsabili per arrivare a un accordo senza il Movimento 5 Stelle. Perché questo è il senso di tutto, cioè, secondo questo retroscena di Repubblica, la mossa di D'Alema è trattare PD, PDL, Scelta Civica, dunque Montiani, cercare di trovare una ricomposizione che escluda il Movimento 5 Stelle e che porti a una sorta di unione delle forze, come dire, larghissime intese, neanche larghe intese, larghissime, PD, PDL, Scelta Civica di Monti. Il presidente del COPASIR, racconta Repubblica, avrebbe lanciato segnali precisi suggerendo la candidatura alla presidenza della Camera di due montiani di area centrosinistra, Lorenzo Dell'Ai e Renato Balduzzi. Lo schema di gioco di D'Alema, che riguarda soprattutto il governo di larghe intese, prevede invece che al Senato venga eletta Anna Finocchiaro con una larga maggioranza di PD, PDL, Lega e Scelta Civica. E tra l'altro su Anna Finocchiaro c'è l'apertura della Lega. Oggi sulla Padania Roberto Calderoli dice: perché no Anna Finocchiaro? Cioè, questo sarebbe un po' l'intreccio per cercare in qualche modo di escludere il Movimento 5 Stelle e bypassarlo. Dall'altra parte c'è da segnalare ancora per questo intreccio della politica, secondo la stampa, la tentazione di Monti, anche quella di candidarsi alla presidenza del Senato. Mario Monti, racconta Fabio Martini a pagina 15, non se l'aspettava nessuno, si è proposto anche Mario Monti, non se l'aspettava nessuno, anche perché è presidente del Consiglio. Uno dice: come fa a fare il presidente del Consiglio e contemporaneamente il presidente del Senato? Ma in realtà c'è il parere di alcuni giuristi secondo i quali sarebbe possibile che il presidente del Consiglio in carica per gli affari correnti lasci l'interim della guida del governo a un suo ministro, nel caso specifico al ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, e quindi diciamo lasci il premierato ad interim e diventi presidente del Senato. Ma staremo a vedere. Come staremo a vedere che decideranno oggi alle 8:30, sono proprio ore di fibrillazione, di scelte, alle 8:30, mentre noi saremo in diretta, i maggiorenti del Popolo della Libertà si riuniscono con Silvio Berlusconi per capire che fare. C'è anche questa ipotesi del cosiddetto Aventino, cioè non partecipare alle elezioni di presidente di Camera e Senato, anche se pare un'ipotesi scongiurata, almeno a leggere il giornale e tutti gli altri quotidiani. Sospesi Aventino e sit-in, ma il Cavaliere resta scettico. È una giornata ieri ancora blindata al San Raffaele, ma l'idea di Berlusconi sarebbe quella di congelare tutto per quel che riguarda la protesta. Renzi, dall'altra parte, ha riunito i suoi deputati, cioè quelli vicini a lui, e ha detto il problema non è mandare in galera Berlusconi, ma mandarlo in pensione. Questo lo trovate in un retroscena, in un racconto di Maria Teresa Meli su Il Corriere della Sera, pagina 19. Vabbè, come vedete, mosse, grandi mosse, contromosse, movimenti e stallo. Questo, cioè, si muovono tutti come facite a Muina e poi il risultato è sempre quello che per il momento non c'è una soluzione. Problema per Marcello Dell'Utri, è arrivata problemuccio, si potrebbe dire, per una casetta un problemuccio, ed è arrivata una condannuccia, 9 mesi di carcere, per la verità la pena è sospesa, perché si è costruito, secondo l'accusa, una casa abusiva, una casetta, proprio una capanna. Io l'ho messa sul mio profilo Twitter, Alino Milan, se andate a seguirlo la potete vedere, in foto. Una casetta proprio sugli alberi, nella sua villa di Como, con vista lago, era abusiva, è abusiva secondo i PM, casetta sull'albero, Dell'Utri condannato. 9 mesi, una casetta, scrive il Fatto Quotidiano, non sapevamo che facesse anche bird watching, magari... No, vabbè, non voleva vedere il pellicano lì, il gabbiano sul comignolo dal lago di Como, era un po' distante. Sta di fatto che è stato condannato per questa casetta abusiva. Vi voglio segnalare in chiusura che cosa è venerdì. Quindi state per affrontare il weekend. Banca Italia ieri, come racconta bene il Sole 24 Ore, pagina 5, ha fatto un appello, racconta Rossella Bocciarelli, tra le altre cose ha fatto un appello alle banche a dire: care banche, se chiudete i bilanci in rosso, vedete di evitare i dividendi ai manager. Quindi bonus, dividendi, queste cose qui. È un po' anche singolare che si debba fare questo tipo di richiamo, però il dato di fatto è questo, anche perché appunto è venerdì, ma andate serenamente al weekend. Non leggete, però, meglio no, leggetelo, pagina 7 del Sole 24 Ore, Moria Longo, che vi racconta come da UBS a HSBC i super bonus. Sapete, ieri in Svizzera, tra l'altro, dove è appena passato il referendum ma non è ancora operativa per tagliare gli stipendi ai manager delle quotate in borsa, sapete, Andrea Orsel, banchiere, ieri numero uno dell'investment banking di UBS, cosa ha fatto? Ha intascato dei benefit per 20 milioni di euro. Il suo amministratore delegato invece, Sergio Ermotti, ha portato a casa 7,2 milioni di euro. E qui c'è l'elenco di tutti gli altri, scrive Moria Longo, degli stipendi dei banchieri, benefit, dividendi, eccetera. Tranquilli, inizia il weekend e quindi potete rilassarvi tra qualche ora anche voi. Il rompipallone di Gene Gnocchi, guarda, è tornata la Gazzetta, torna la Gazzetta. Ah, tra l'altro c'è il titolo Stra Inter. te la meritavi, peccato. Uno fa 4 gol come il Barcellona e si ritrova fuori dalla Coppa lo stesso. Vabbè, comunque, il rompipallone di Gene Gnocchi, nuovo legittimo impedimento per Berlusconi, ha fatto sapere di avere la barcellonite. «24 mattino, la politica nel tunnel». Sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi è il giorno dell'insediamento delle Camere, tra circa un'ora e mezza, alle 10, con prime votazioni di Presidente di Camera e Senato. Insomma, questa liturgia anche per l'insediamento nasce ufficialmente la 17ª legislatura. Allora, io ho ricevuto una mail qualche giorno fa da tale Cesare Ciantelli, un nostro ascoltatore che ci ricordava come il conclave sia nato nel 1270, perché gli abitanti di Viterbo, stanchi di vedere i cardinali indecisi, li rinchiusero appunto in conclave fino all'elezione del Papa. E aggiunge questo ascoltatore: credo che per cercare di risolvere il problema del nuovo governo in Italia si potrebbero chiudere a chiave tutti i neoeletti in Montecitorio con buvetta a regime ridotto, prezzi in linea con gli esercizi interni e esterni, e analogamente a quanto successe a Viterbo nel 1270, fin quando i reclusi non sortiranno la scelta di un nuovo governo, il portone di Montecitorio non sarà riaperto. È una proposta che faccio mia, ovviamente, simpaticamente, da 2 giorni che lo dico. Chiudiamoli in conclave, mettiamo anche il comignolo, sigilliamo, mettiamo anche un gabbiano di cartapesta oppure di piume e ossa se volete, e poi attendiamo di non leggere più la parola stallo sulla politica come si legge oggi sui giornali. Non so se sono d'accordo con noi due deputati, Pina Picerno del Partito Democratico, buongiorno, è pronta? Buongiorno, è pronta? Buongiorno a voi. A questo conclave, pronta? Ma vi servisse a qualcosa, pronta anche a stare rinchiusa. Per insomma, tutto il tempo necessario. Assolutamente. Saluto anche l'onorevole Luca Squeri del Popolo della Libertà, buongiorno. Buongiorno a voi. Neodeputato, credo, no? Esatto, sì. È pronto subito anche lei ad attendersi questa bella accoglienza da parte dei cittadini. Che ne pensa di questa proposta? Belli rinchiusi lì finché non trovate una quadra. Sicuramente ha una sua efficacia, però se non sbaglio la proposta venne dopo mesi, se non addirittura anni, che non veniva fuori il nome. Spero che non si sia in queste condizioni, insomma. Insomma, poi lei dice: scusa, sono neodeputato io, adesso devo scontare io il fatto che la politica magari non ha fatto niente per anni. Vabbè, comunque, allora, le questioni sul tavolo sono tante. Intanto, Pina Picerno, lei voterà scheda bianca sull'elezione delle Camere come indicazione del partito. Perché questa storia della scheda bianca? Guardi, perché fino all'ultimo noi stiamo tentando con ogni sforzo possibile e immaginabile di dimostrare che, per quanto ci riguarda, le istituzioni non sono un concetto proprietario, nonostante diciamo il fatto che, come sa, il Partito Democratico ha la maggioranza assoluta alla Camera, la maggioranza relativa al Senato, e quindi potremo tranquillamente insomma eleggere alla Camera per esempio il nostro Presidente senza alcuna diciamo alcun problema. Continuiamo a dire in ogni lingua insomma in ogni modo possibile che, per quanto ci riguarda, le istituzioni sono la casa di tutti, sì, e che quindi si decide insieme i nomi dei presidenti. Devo dire che dall'altro lato, tra le altre forze politiche, stiamo trovando un atteggiamento che definire di chiusura. Ma perché c'è, non capisco, nel senso, il Movimento 5 Stelle per esempio ha fatto dei nomi, cioè cos'è che non va bene? Ognuno dice: io vorrei proporre questo, io quest'altro, il Popolo della Libertà magari dirà: aspetta a noi una Camera, insomma ognuno fa le proprie richieste. Cioè, ecco, insomma un po' come al mercato, questo è un atteggiamento un po' singolare. Ecco, io mi aspetterei dal Movimento 5 Stelle, ovviamente insomma non entro nel merito dei due nomi scelti, sì, insomma, sì, del percorso che loro stanno facendo in autonomia, che rispetto nella maniera più assoluta. Ecco, però un partito, un movimento nuovo che si propone come lontano dalle alchimie della vecchia politica, che vuole rinnovare, sì, rivoluzionare. Ecco, non solo fa i nomi, si attacca un po' alle poltrone dicendo battaglia tutta la vita, moriremo sul campo di battaglia quando si tratta di nomi, e questo mi lascia francamente un po' perplessa, lo trovo un po' singolare. Non le piace. Ecco, allora Tra l'altro io ricordo 800 24 00 24, cari cittadini, vi scateno su questo, no? Che ne pensate? Potremmo fare un bel conclave della politica, li rinchiudiamo lì finché, ovviamente a buvette, prezzi esterni, quindi come all'esterno, così finché non trovano il governo. Allora, intanto vorrei capire dall'onorevole Squeri questa posizione del partito. È vero che tra pochi minuti, so, alle 8:30 ci sarà una riunione tra Berlusconi, i suoi rappresentanti politici più vicini, per capire la linea da adottare. C'è anche... La correggo perché alle 8:30 c'è la riunione dei gruppi parlamentari congiunti. Dei gruppi parlamentari. La riunione è stata fatta ieri, diciamo, sì, dal vertice del PDL. Ecco, il punto sul piatto su cui si discute è anche questo, la possibilità del cosiddetto Aventino. Secondo lei è ancora una possibilità che c'è, oppure Berlusconi ha detto congeliamo tutto? Cioè, voi parteciperete normalmente ai lavori? Direi proprio di sì. Comunque, chiaramente mi riservo poi di sapere in questa riunione cosa ci verrà detto dal vertice del partito. Chiaramente ci sarà il gruppo sia al Senato che alla Camera compatto, che seguirà l'indicazione che il Popolo della Libertà darà ai propri parlamentari. Mm. Voi cosa chiedete? Secondo lei è giusto e legittimo che il Popolo della Libertà chieda, che ne so, per esempio una Camera, piuttosto che, cioè, accetta il discorso di dire di nell'onorevole Picerno non discutiamo, come se fossimo al mercato? Ma guardi, qui non c'è in ballo il Presidente della Camera o del Senato, qui c'è molto di più, nel senso, dare un assetto istituzionale a un Paese. Siamo in un momento dove andremo a eleggere non solo i capi delle Camere, il Presidente delle Camere, ma addirittura il Presidente del Consiglio e addirittura il Presidente della Repubblica. È chiaro che ci deve essere un discorso che prenda in considerazione questa complessità, per cui noi non siamo interessati a seguire proposte di avere una Camera o l'altra. Qui c'è da decidere se in una situazione dove una maggioranza in Parlamento non c'è, si voglia prendere trovare. Oggi racconta Repubblica che ci sarebbe un uomo, un'eminenza dietro alla trattativa per escludere il Movimento 5 Stelle e fare un governo di larghe intese, PD, PDL e magari anche di larghissime con i montiani, e quest'uomo sarebbe, onorevole Picerno, Massimo D'Alema. Perché sorride? Che fa? No, che non rido, è stato... non solo rido. Ride, perché? No, perché mi pare, diciamo, anche questo l'ennesimo retroscena che, diciamo, insomma, oltre a soddisfare l'ego di chi lo scrive, non racconta la verità, cioè nel senso che non è assolutamente vero. D'Alema, come sapete, si è autorottamato, peraltro, quindi insomma... ho capito, ma per tenere colloqui, per parlare con le persone, mica bisogna essere eletti. Sì, ma non è assolutamente, il pallino non è nelle sue mani nella maniera più assoluta, insomma, è una falsità. Del resto mi sembra, se poi insomma la persona meno adatta in assoluto a ragionare con il Movimento 5 Stelle. Infatti l'idea sarebbe questa di D'Alema, secondo questo retroscena, di escludere il Movimento 5 Stelle. Certo, Squeri, dica, di escludere il Movimento 5 Stelle, ma fare PD-PDL. Dica, Squeri. Parla del D'Alema del PD? Sì, quello lì. D'Alema. No, perché sentivo i commenti, mi sembrava un po' di confusione. D'Alema del PD, certo, sì. Sì, ma pensi un po' che, come sa, diciamo, la linea del segretario di Bersani, di tutto il Partito Democratico, quella che stiamo perseguendo senza... con convinzione è quella, appunto, di continuare il dialogo con il Movimento 5 Stelle. Cioè, per quanto ci riguarda, il dialogo con il PDL, con questo PDL, con il PDL che occupa gli spazi antistanti delle aule di giustizia, che vuole assicurare il condono penale a Berlusconi, l'impunità ai potenti, non ci interessa. Per quanto ci riguarda non ci può essere nessun tipo di dialogo. Lei Squeri era lì al tribunale, ha fatto parte di questa bella manifestazione colorata. Certamente sì. E come la definisce lei? Perché qua mi può far dire una cosa? Sì. Veramente io sono sconcertato nel sentire un esponente del PD che parla in quel modo di Massimo D'Alema, tra l'altro mettendo l'alternativa come positività al Movimento 5 Stelle. Siete proprio messi male, me lo faccia dire senza senza credine. La mia opinione è che voi state messi molto peggio, che fate cose, diciamo, che non hanno precedenti nella storia della Repubblica, e dimostrate anche, se mi lascia dire, uno scarsissimo senso delle istituzioni, perché quando il neo eletto onorevole ci ricorda che per chiudere un discorso che riguarda i presidenti delle Camere, io vorrei ricordare a tutti e soprattutto ai nostri ascoltatori che i presidenti della Camera sono di tutti, non sono espressioni, diciamo, soltanto delle maggioranze, mentre il governo è espressione ovviamente della maggioranza che vince le elezioni. Quando si arriva, diciamo, a sostenere con la nonchalance con la quale il nostro neodeputato, neoeletto, ci sosteneva che, insomma, per eleggere, per chiudere l'accordo, perché poi no, questa è la vecchia politica, l'alchimia, la chiusura del quadro, no? Quando si arriva a sostenere che per eleggere, cioè per dare le istituzioni a questo paese, per eleggere il Presidente della Camera, bisogna fare un accordo sul governo, io trasecolo, francamente. No, non niente accordo, no, però mi interessa... Avevo una visione complessiva delle istituzioni, ho parlato di chiusi, cioè degli accordi che volete chiudere. Ma no, non credo che si riferisca, vabbè, non sugli accordicchi, però, siccome io devo andare in pubblicità 5 minuti, Squeri, mi faccia capire, lei era lì, come definisce questa manifestazione che l'avvocato Longo di Berlusconi qui ai nostri microfoni ha detto, ma no, è stata una manifestazione normale di solidarietà. Ma come normale? Normale no, se non altro non aveva precedenti, ecco. È stata una manifestazione assolutamente pacifica, ci mancherebbe, dettata dalle notizie che in mattinata sono arrivate di una accelerazione di una magistratura, di una parte, perché sottolineiamo che è una parte della magistratura che fa politica, non certo tutta, una contro parte. Il leader del Popolo della Libertà, e questo è un vulnus alla democrazia, è di questo che dobbiamo preoccuparci. Ma infatti facciamo così, da questo ripartiamo tra un attimo, perché siamo sempre lì, o siamo con l'onorevole Pina Picerno del Partito Democratico e con l'onorevole Luca Squeri del Popolo della Libertà, oggi si insediano le Camere, è sempre lì, la giustizia e la politica e la giustizia. Berlusconi dice mi vogliono attaccarmi, vogliono abbattere giudiziariamente i magistrati. 24 mattina. E allora eccoci, le 8:35 minuti, oggi si insediano le Camere, 800240024, siamo qui a discutere con l'onorevole Pina Picerno del Partito Democratico e Luca Squeri, onorevole del Popolo della Libertà, che so ci dovrà lasciare qualche minuto prima della chiusura. Onorevole Picerno e Squeri, voi conoscete il nostro contadino di Terni che ci ha lasciato un messaggio in segreteria che avrebbe la ricetta per i politici? Picerno, no, non so se è mai capitato, perché lo mandiamo in onda presto. No, la ricetta, allora ascoltate qui, ma si fa per giocare, la ricetta del contadino di Terni. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro e a cena una minestra scunnita. Ecco, questa sarebbe la ricetta, onorevole Picerno, il clima un po' è questo, però vi rendete conto che andate incontro anche a un sentimento un po' di sfiducia della gente, diciamo così, per ma usare giustamente, una frase. Io guardi, cioè, la gente come potrebbe non essere arrabbiata, mi chiedo, cioè, noi abbiamo avuto governi incapaci di risolvere la situazione drammatica nella quale nostro paese era immerso, abbiamo avuto Presidente del Consiglio che continuavano a sostenere che i ristoranti erano pieni, che gli aerei erano pieni, abbiamo avuto politiche del tutto, diciamo, miopi rispetto a quanto stava per accadere, e abbiamo avuto per anni una politica che è stata interessata soltanto a risolvere i propri problemi, le proprie questioni, dalle questioni giudiziarie, prima parlavamo, no, delle solite questioni giudiziarie di Silvio Berlusconi, potremmo fare qua un elenco. A questo proposito le faccio questa domanda molto secca, così poi risponde anche a Squeri. La faccio anche a lei, come è stata fatta a Migliavacca. Arrivasse la richiesta d'arresto di Berlusconi, lei come la voterebbe? Ma certo che la voterei, ma stiamo scherzando, ma senza nemmeno mezzo dubbio. Ma cioè, e perché vuole, eccolo lì, il PD che vuole in carcere Berlusconi. Ma non è il PD che vuole in carcere, ma siamo in un paese nel quale la giustizia è uguale per tutti o no? O deve essere un po' meno uguale per i potenti? Guardi, io su questo mi scandalizzo, non riesco mai a scandalizzarmi abbastanza, perché un tempo si diceva che la politica dovrebbe essere, i politici dovrebbero essere come la moglie di Cesare, si ricorda, no? Al di sopra di ogni sospetto, e qui siamo arrivati all'assurdo che invece ai politici si debba garantire una sorta di impunità. E io questo lo rifiuto, perché se un povero Cristo che magari per fame ruba un panino viene sbattuto in galera e non esce più, mentre per i politici noi ci siamo trovati di fronte a richieste d'arresto che sono state rifiutate, rigettate dal Parlamento. Penso alla vicenda Cosentino, sì. Penso diciamo a tutte anche alle vicende che hanno riguardato i politici più guardiali, quindi insomma è solo una questione di parte. Se arrivasse la richiesta d'arresto di Berlusconi, è un cittadino come gli altri, quindi voto sì, ma, proprio. Ma per Berlusconi, come per qualsiasi altro politico, sì, certo. Il tema non è Berlusconi. No, ma è chiaro. Però il tema su Berlusconi è chiaro che ha una sensibilità diversa. Onorevole Squeri, ha sentito il clima è questo? Insomma, è sconcertante. Perché è sconcertante? Cioè, glielo dico, sentire un parlamentare che afferma che a prescindere se arriva la richiesta d'arresto di un altro parlamentare e non è uno qualunque, è il leader di un movimento che ha avuto 9 milioni di voti dei cittadini, vota l'arresto a prescindere dalla valutazione del merito, dunque senza nemmeno attendere l'approfondimento, è assolutamente sconcertante. Sì, però effettivamente l'onorevole Picerno dice: se capitasse a un qualsiasi cittadino, è chiaro, sappiamo, il parlamentare ha delle prerogative, ha delle immunità che non è più così, però per qualsiasi altro cittadino allora il politico è uno più uguale degli altri. Guarda, io appartengo a quella schiera di parlamentari che hanno sottoscritto l'impegno a dimezzare l'emolumento dei parlamentari, dimezzare il numero dei parlamentari, togliere il finanziamento ai partiti. Detto questo, nella Costituzione c'è scritto che il parlamentare rappresenta la nazione, per cui quando si parla di una legge che per arrestare chi rappresenta la nazione debba avere un passaggio di approfondimento prima che un PM è una prerogativa, è una garanzia del sistema. Un PM che magari vorrà presentarsi alle prossime elezioni politiche, che in Italia non è successo, perché l'Italia è un paese normale e una cosa del genere non può succedere, no? Che un PM fonda un partito perché falsità? Perché il neo eletto l'onorevole Squeri, dovrebbe un po' ripassare evidentemente un po' diciamo la Costituzione, i manuali di diritto, insomma queste cose qua, perché come è noto le Camere sono tenute a valutare soltanto la presenza o meno di fumus persecutionis, non entrare nel merito di quanto sostengono i magistrati. Non ce n'è proprio. È un po' ironico nel dire che non c'è persecuzione per Berlusconi, l'onorevole Squeri. Le maniere di accanimento non sono una persecuzione, no. Va bene, ma noi parliamo di un presidente, di un ex presidente del Consiglio, per fortuna e per grazia di Dio, diciamo, che ha passato la metà della sua vita politica a confezionarsi leggi et personam, perché guarda, io stavo in commissione giustizia, ho passato 5 anni della mia vita a occuparmi delle leggi confezionate a uso e consumo di Silvio Berlusconi, processi lunghi, processi brevi, ex Civielli, prescrizione, lodo Alfano, vogliamo continuare. Quindi parlare di persecuzione da parte della magistratura mi pare un'enormità. Solo che adesso queste leggi non ci sono più, tra l'altro, quindi questo sarà un problema che si porrà. Fatemi sentire prima due ascoltatori, poi vi do la parola, che poi l'onorevole Squeri ci deve salutare. Mariangela da Mantova, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica, Mariangela. Ma io sarei anche favorevole a richiudere i nuovi eletti e tutti gli eletti. Sarei favorevole. Noi, parlo come cittadina italiana, abbiamo bisogno di una stabilità, abbiamo bisogno anche per dare insegnamenti ai nostri figli di gente che sia equilibrata, che la smetta di azzuffarsi, la smetta di attribuire le colpe sempre all'altro, nel guardare i propri difetti o quantomeno le proprie cose. Ma vede, una politica litigiosa che lascia un po' tempo che trova. È una politica litigiosa, una politica volgare. È una politica dove non si raggiunge la sostanza. Se siamo arrivati ad un passo dalla Grecia, lo dobbiamo anche a delle misure di non stabilità, quindi legga pure nella non stabilità di equilibrio. Le premesse, tra l'altro, non sembrano di quelle buone per arrivare. Assolutamente no. Io non ho votato Grillo, ma sono contenta comunque, perché è un voto di protesta, come è stato tanti anni fa col voto della Lega. Quindi sono contenta e dovrebbero essere anche contenti i nostri politici, perché comunque è un voto di bisogna leggerlo, credo così, un voto di sensibilità, cioè la gente ha voluto protestare con qualche cosa di non ideologicamente, no, ma molto certamente qualche merito c'è già. Ieri per esempio ho sentito, e magari la facciamo risentire poi, l'onorevole Santanché dire dobbiamo ridurci lo stipendio dell'80%. Adesso c'è un po' la corsa a diventare più grillini dei grillini. Grazie Mariangela, vorrei dare un attimo la replica allora onorevole Squeri, che so poi ci deve lasciare prima delle informazioni sul traffico. Cioè cosa c'è che non va, onorevole Squeri, sulla questione della possibilità di votare l'arresto di Silvio Berlusconi dovesse arrivare? Cioè cos'è che vi ha scandalizzato anche della posizione dell'onorevole Emilia Vacca e ora anche di Pina Picerno? Ma si rende conto, ci siamo in un momento politico particolare, non c'è una maggioranza nel Parlamento, abbiamo chi nel partito che ha peraltro sì la maggioranza in una Camera, che ha come obiettivo prioritario quello di mandare in galera il leader del Popolo della Libertà e di chi ha preso 9 milioni di voti ai cittadini. Non credo che sia l'obiettivo, non credo che sia l'obiettivo primario, diciamo. A domanda dovesse capitare, uno fa una risposta. Ecco, che... con l'enfasi che ho sentito, se non è prioritario siamo vicini. E comunque spero che non sia un'idea unanime, tra l'altro ne sono anzi convinto, perché sentire poi l'onorevole Picerno che asserisce che D'Alema sia autorottamato, secondo me è proprio segno che all'interno, cioè, del PD sta roba di D'Alema è rimasta, sta roba di D'Alema Picerno l'ho colpito al cuore, sì, questa cosa di D'Alema l'autorottamazione, ma poi è un fatto storico, cioè insomma una verità, come una verità che però mi ben sperare rispetto a una posizione che ho sentito che è assolutamente inaccettabile, perché se si comincia a pensando appunto di voler aggiungere come obiettivo mandare in galera Berlusconi, si comincia proprio molto male. Sentiamolo chiaramente, lei onorevole Picerno lo vorrebbe vedere in galera proprio Berlusconi? Guardi, ma io lo ribadisco qua, il tema non è Berlusconi, come ho detto prima, il tema è che, e lo ribadisco con molta chiarezza e serenità, che la legge è uguale per tutti, e siccome Berlusconi, per quanto mi riguarda, non è soltanto il leader, diciamo, della coalizione di centrodestra, ma è anche, diciamo, un cittadino italiano fino a prova contraria, quindi deve essere sottoposto al giusto processo, non lo devo decidere io se deve andare in galera o meno, lo devono però dimostrare e decidere i magistrati. Lei dice io voglio che venga trattato come tutti. Squeri, io concludo e chiedo scusa se devo lasciarvi, concludo con questa cosa. Io ieri ho cominciato la mia attività di parlamentare andando a visitare le carceri di San Vittore. Uno dei più grandi carceri italiani, non vi dico la condizione dei detenuti, qui il problema giustizia, il problema giudiziario ha anche altri capitoli molto più importanti da affrontare, spero che si abbia modo e tempo di farlo, però un dato, di 1600 detenuti a San Vittore che sono detenuti in attesa di giudizio, le statistiche dicono che il 50% sarà innocente. Ecco, per cui quando si parla di arrestare, l'onorevole Picerno dice la legge uguale per tutti, ecco, stiamo attenti, perché quando la legge uguale per tutti, ma spesso la legge invece di sa che però lo usano come argomento contrario, Squeri, sì, certo, però onorevole, molti lo usano come argomento contrario a dire non si sono mai viste queste mobilitazioni per tutti i poveri cristi in carcere che poi finiranno innocenti, mentre invece perché cioè, adesso va bene tutto, ma stiamo parlando del leader di un movimento che ha preso 9 milioni di voti e che il partito avversario vuol mandare in galera, stiamo parlando di questo, che è veramente sconcertante, inaccettabile. Vabbè, intanto io la ringrazio e la saluto, l'onorevole Luca Squeri del Popolo della Libertà, rimane con noi l'onorevole Picerno, forse ci raggiunge anche tra poco una neodeputata del Partito Democratico, Marietta Tidei, dopo il traffico. Eccoci, 8:48 minuti, vorrei sentire Francesco da Bologna, buongiorno Francesco, dica. Buongiorno a tutti. Sì. Innanzitutto vi volevo fare i complimenti perché la trasmissione comunque è molto veloce. Vada. Io volevo dire che veramente siamo all'assurdità delle assurdità, del pelo dello stomaco che hanno il Popolo delle Libertà nell'esprimere esprimere un parere di dire che il signor Silvio Berlusconi non possa andare in galera. Cioè, ora, io a prescindere da tutto, dall'accanimento o non accanimento, evito questa discussione qua, le brigate rosse. Però ha ragione la signora, deve andare in galera, non dico subito, ma è stato accusato, l'hanno detto che deve, ma deve andare in galera, ma colpevole, lei mette un po' tutto insieme, ma in galera di chi? Ma le risulta che ci sia un mandato d'arresto per Silvio Berlusconi? No. Allora l'informazione sembra molto fuorviante, perdonatemi. Mi scusi, ma no, ma da chi giudicato colpevole? Ma no, ci sono dei processi in corso, Francesco, ma non è che c'è una condanna per Silvio Berlusconi, c'è stata, ma voglio dire, in primo grado le condanne, sa, c'è stata di recente a un anno per la vicenda del nastro, ma le condanne... condanna di un anno, lei dovrebbe, per quella condanna di un anno, in primo grado dovrebbe andare in galera, secondo lei, Berlusconi? Ma io penso, no, a un certo punto di sì. È giusto che la legge lo giudica in questa maniera qua, è giusto che... Vabbè, un anno di carcere, un anno di carcere, guardi che se lo prendiamo io e lei, un anno di carcere, se siamo incensurati non andiamo in galera neanche noi, glielo dico così, è il primo grado. Quindi... Vedo anche che uccidere una persona non è che porta via poi tanto tempo. Si mette un po', insomma, tante cose insieme. Francesco, comunque la ringrazio per la sua opinione, non so, Pina Picerno, questo è un po' il clima che c'è. Però mi faccia salutare, ci ha raggiunto anche una sua collega di partito, Marietta Tidei, buongiorno, del Partito Democratico, neoeletta, neodeputata. Buongiorno. Ieri sul Corriere della Sera le ha fatto le pulci a lei e a suo padre, perché suo padre è sindaco, sì, credo, di Civitavecchia, ed ex potente, onorevole, sempre di Civitavecchia. Per cui ieri Sergio Rizzo scriveva, eccola qui, da padre in figlia, l'onorevole Marietta Tidei, ora alla Camera. Come il padre, Devo rispondere a questa cosa? È certo. Allora, io ricordo a Rizzo, come ricordo ai telespettatori, che io non è che sono alla Camera per gentile concessione di nessuno. Io ho fatto le primarie come la gran parte dei miei colleghi, sono arrivata prima nella provincia di Roma e seconda in tutto il Lazio. Anche senza i voti di Civitavecchia sarei stata comunque tra gli eleggibili, anche in ottima posizione. E tra l'altro ricordo che comunque, chiaramente non lo so perché non sono sicuramente conosciuta, ma faccio politica da quando ho 14 anni, sono vice segretario del PD della provincia di Roma, ho fatto il consigliere comunale a Civitavecchia per 5 anni. Con suo padre sindaco? Era suo padre sindaco? No, assolutamente no, poteva succedere. No, non poteva, tant'è che quando mio padre si è candidato sindaco io non mi sono ricandidata al consiglio comunale. Una passione di famiglia come io credo sia anche normale. Guardi, io ho quattro fratelli, una poteva anche venire fuori che comunque avesse la passione della politica. Se lei considera che una madre che è iscritta alla FIGC da quando aveva 14 anni, un padre idem, a casa mia si è sempre respirato pane politica. No, ma guardi che suo padre suo padre, che noi abbiamo avuto varie volte ospite quando c'era stata la diatriba, si ricorda, sul seggio da lasciare a Mario Adinolfi, si è dimesso dopo 20 giorni, ci sono stati onorevoli ben più importanti tipo Orlando che l'hanno fatto molto ma la vedo molto combattiva, anche suo padre è così, è uno molto fumantino, combattivo, insomma, quindi... No, io non sono fumantino, ma mi fa specie che, insomma, in un'Italia che è piena di problemi, voglio dire, possa destare. Io capisco che i giornalisti hanno giustamente l'obbligo di raccontare l'Italia, anche di segnalare le strutture, anche di meccanismi ereditari che hanno bloccato questo paese, non solo in politica, io credo anche nel giornalismo, nell'economia, ci mancherebbe altro. Siamo un paese di caste, effettivamente. Un po' meglio. No, le chiedo, siamo un paese di caste, questo effettivamente. Senta, le chiedo anche a lei, visto che l'ascolta anche l'onorevole Pina Picerno, sua collega del Partito Democratico, ha detto io voterei sì. Lei voterebbe sì per un'eventuale richiesta d'arresto di Berlusconi? Ma guardi, io credo che ancora il mandato di arresto, la richiesta di mandato di arresto, l'autorizzazione non ci sia, cioè non c'è nessun mandato d'arresto. Io credo che Berlusconi vada trattato come tutti gli altri cittadini, quindi qualora arrivasse in Parlamento questa richiesta si valuterà come si è fatto per tutti gli altri, ci mancherebbe. Berlusconi non è sopra la legge, insomma, assolutamente non è sopra la legge, però perché, onorevole Picerno, allora questa fuga in avanti, cioè di questo vi hanno accusato, a dire parlare di questa cosa in questo momento era la cosa peggiore per creare un attimo di serenità nell'ambiente, no Picerno? Ma di quale cosa, scusi? Cioè noi stiamo parlando di un partito politico del PDL che con tutta la sua rappresentanza parlamentare e con il suo ex ministro della giustizia, l'ex ministro della giustizia Angelino Alfano, occupano lo spazio antistante di un'aula di giustizia, mettendo in atto un vero e proprio ricatto istituzionale, perché di questo stiamo parlando, e chiedendo un condono penale per il leader, proprio il leader politico, e il problema saremmo noi ora, che diciamo che Berlusconi deve essere trattato come normale cittadino. Mi sembra, diciamo, davvero ribaltare la situazione. Senta, un'ultima cosa, onorevole Picerno, ho 10 secondi, ma lei coi grillini che ci farà? Ci scambierà qualche parola? La scambieranno per una giornalista? Non le rivolgeranno la parola? Come li tratta? Ma come qualsiasi altro, diciamo, collega parlamentare, certo. Anche quanto. Ma non gli dica però, collega parlamentare, gli dica cittadini. Allora. Vabbè, insomma, sì, vabbè. Collega parlamentare, perché sono, che gli piaccia o no, insomma, sono parlamentari, sono stati eletti dal popolo italiano a rappresentarli, si chiamano parlamentari. Dopodiché mi lascio anche dire che io riconosco al Movimento 5 Stelle di aver portato alle urne, di aver portato alla partecipazione alla vita politica tante persone, giovani e giovanissimi. Ma questo senza dubbio. È una novità assolutamente che io condivido, senza dubbio. Oggi si insediano le camere, grazie all'onorevole Pina Picerno, Marietta Tidei, anche Luca Squeri che è stato con noi. Ci fermiamo e vi salutiamo a lunedì. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro. E a cena una minestra scunnita. 24 mattino.